questo posto senti un po' di rumori particolari, oppure anche fuori? Anche i rumori particolari sono fuori, nei giardini la notte, di qualche ragazzino con qualche anno più di voi che proprio non si comporta molto molto bene. Quindi rumori di notte, sera, ma sì, sera poi ci hanno fatto dei dispetti. E qualcosa di piacevole che sento ogni tanto?